Sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di pettini, lanciate forbici, al mio comando tutto qui sta. Lanciate forbici, raso di pettini, al mio comando tutto qui sta. Ve la risorsa, poi del mestiere. Con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra l'allero, col cavaliere, tra l'allero, 啦啦啦。Di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto. Ehi, Figaro. Ahimè, ahimè, è furia, ahimè, è folla, una alla volta, per carità, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, prendo l'ordissimo sopra il fulmine, sono il fantasma della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Andrea di quel metallo portentoso onnipossente. Un vulcano la mia mente già comincia a diventarsi. All'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventarsi. Sì, all'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventare, un vulcano incomincia a diventare. Su vediamo di quel metallo qualche petto sorprendente. Del vulcano della tua mente qualche mostro singolar. Sì, del vulcano della tua mente qualche mostro singolar. Sì, del vulcano della tua mente qualche mostro singolar. Sì, voi dovreste travestirvi, per esempio, da soldato, sì signore, da soldato. E che si fa? Oggi arriva un reggimento. Sì, è mio amico il colonnello. Cavenone! E poi? Cospetto! Nell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore? Non mi pare? Non l'ho trovata? Bene, sì. Che invenzione, bravo in verità. ubriaco mio signore si fingerà. Ubriaco? Sì, signore. Ubriaco? Ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché dunque poco in sé che dal vino casca già il tutor, credete a me, il tutor si fiderà, il tutor, credete, credete a me, il tutor si fiderà. Che invenzione, che invenzione, peccato! Che invenzione, che invenzione, peccato! Che invenzione, che invenzione, peccato! Bella, bella, bella, bella, bella, in verità! Sì, sì! Che invenzione, peccato! Bella, bella, bella, bella, bella, bella, in verità! Che invenzione, peccato! Che invenzione, bella, bella, peccato! Il meglio mi scordavo. Sì, dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta. La bottega non si sbaglia, guardi te, ecco. Numero 15, a mano manca, 4 gradini. Facciata bianca, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla moderna, pepe insegna, una lanterna, rosa in fagollo, ti troverà, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla moderna, pepe insegna, una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto. Tu guarda bene, io penso al resto. Di te mi fido, ora l'attendo. Mio caro Figaro, intendo, intendo. Porterò me con la borsa piena, sì, quel che vuoi, ma il resto poi, così nomi di te me ne andrò, te ne andrò. Ma che d'amore la chiama io sento, e un sia di giù, e si consento, d'ardore insolito quest'alma accende, e di me stesso, ma dormi qua. Oh! Si introduce il destramento e le teste di cervelli e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiavazzo va crescendo, prende forza poco a poco. Vola già di latino, con sempre il cuore un altro in testa, c'è nel centro il campo, adesso fatti schiando, rotolando, che ti fanno l'orcelando, poi la pinta bocca scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremor temporale, un tremor temporale, un tumulto generale, che malaglia ricombando, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale, che malaglia ricombando. E meschino calunniato, avvilito, calpestato. E allora? Sotto il pubblico flagello Pegaso deve crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, Sotto il pubblico flagello per gran sorte ma crepere il meschino calunniato avvilito calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte ma crepere sotto il pubblico flagello per gran sorte ma crepere sotto il pubblico flagello per gran sorte ma crepere si va a crepere si va a crepere si va a crepere. Siete voi, bella rosina, siete voi, siete voi, bella rosina, oh che volpe sopraffina, oh che volpe sopraffina, ma l'avrà da far con me, sì, ma l'avrà da far con me, ma qui l'indoro per parlarvi or or sarà zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or or sarà per parlarmi bravo, bravo, venga pur ma con prudenza io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa egli attende qualche segno poverin del vostro affetto sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrò, li mandate, e qui verrò, li mandate, qui verrà. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. Mi vergogno. Ma di che? Ma di che si sa? Presto, presto, un biglietto! Un biglietto, sì. Eccolo qua. Già era scritto. Beh, che bestia, beh, che bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati avete gli e ho cominciato a scrivere. Attingate la costei di malizia potendo. Thank you. Donne, donne, eterni dei, donne, donne, eterni dei, scusa signorina a un dottor della mia sorte che si sconde signorina vi consiglio mia carina un po' meglio imposturar meglio, meglio, meglio, meglio vi consiglio mia carina un po' meglio imposturar meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio mia carina un po' meglio in postura. Sì, sì, vi consiglio mia carina un po' meglio in postura. Quando corte la mia sorte queste scuse, signorina, vi consiglio mia carina un po' meglio in postura. Il confetto alla ragazza, il ricamo sul tamburo, vi scoppaste e via, e via. Chi vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro! Chi vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro! Perché manca anche il foglio? Posso per cote s'imbroglio? Perché manca anche il foglio? Sono inutili le sbarfie! Fermala! Non mi toccate! Fermala! Non mi toccate! No, figlia mia, non lo sperate! Che io mi lasci di vino, no, no! Figlia mia, non lo sperate! Io mi lasci in fino cari Paolo colpe la mia sotte queste scuse signorina vi consiglio mia carina tu con me li posso usare oh no me li posso usare oh no me li posso usare vi accadrò confessare son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate. Non parlate, vi ostinate. So benissimo quel che ho da far. So benissimo quel che ho da far. Signorino, un'altra volta che lo parla da fuori. Signorino, un'altra volta che lo parla da fuori. La consegna genitoria, sua moda, cosa verrà? Signorino, un'altra volta che lo parla da fuori. Signorino, un'altra volta che lo parla da fuori. La consegna genitoria, sua moda, cosa verrà? E non sembra nemmeno morta, sta pure che è morta. Fatta pure, fatta pure, fatta pure che è morta. Questo è quella porta, questo è quella porta. Nemellare, nemellare, nemellare, nemellare, lo verrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non sembra le smorfie, fatta quella gatta volta, chiudendo quella porta, deve dare quella, e non si rinocentina, e non si rinocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata,

Grazie, non incomodi. Gioia e pace per mill'anni. Obbligato, in verità. Questo volto non è mio. Ha su un colpo andato vuoto. Non ravviso, non ricordo. Agabbar questo ballone. Ma quel volto. Non ho il travestimento. Non capisco chi sarà. Più propizio me sarà. Sì, propizio me sarà. Gioia e pace, gioia. Ho capito, uccelli che noia. Gioia e pace, vendi cuore. Basta, per pietà. Gioia, pace. Ho capito, uccelli che noia. Vendi cuore, pace, gioia. Basta. Basta per pietà, pace. Perfido destino. Il vecchio non mi conosce. Ma che barbara giornata. Ma mia sorte fortunata. Ma che perfido destino. Oh, ma che mio bene. Ma che perfido destino. Fodi santi. Tutti quanti a me davanti. Tutti quanti a me davanti. Che poter libertà. Ma che perfido destino. Ma che barbara giornata. Parleremo. Gioia, canaglia, pace, ma basta, gioia, basta, per pietà, ma che perdi, ma che destino, ma che vado a giorno, parleremo di libertà. Che pace! Basta! 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏普契尼的歌剧《托斯卡》中的选段，由米瑞西欧、兰姆蒂博、卡洛里等歌唱家的演唱，斯洛伐克爱乐合唱团演唱，捷克斯洛伐克广播交响乐团演奏，拉巴里指挥。 Thank you. Eccellenza, vado! Hai tuo piacere! Vieno ai paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di qua ne scegliuta! Va! Oh. Thank you. sei contento? Tanto. Torno a dire. Tanto. Lo dici male. Lo dici male. Non la sospere la nostra casetta. E tutta sosa nel verde ci aspetta. E nel ruolo il sacro è nato in me. Thank you. lasciami. Tu fino stasera stai fermo al lavoro e mi prometti, sia caso fortuna, si attrecciami una bruna. A pregar non verrà donna nessuna. Lo giuro, amore. Oh, Oscando un falco, certo a quest'ora gli essi bugi le due brevi azzannano. Domani sul palco vedrà l'aurora Angelo che il bel Mario all'accio penderà. Tosca è a palazzo, uscia bellana, uscia pura in Francia. Apri. Tarda è la notte. Cantata ancor manca la diva e strimpellan gavotte, tu attenderai la tosca in sull'entrata, le dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio, le darai questo biglietto e la verrà. Thank you. più forte. Vada all'ape! Del giardino va spolenta. Tremar, libertà sorgere. rotta. Così accasciata via, mia bella signora, sedete qui, volete che cerchiamo insieme il modo di salvarlo? E allora, sedete e falliamo. Un sorso per rincorarvi. Quanto? Quanto? Il prezzo. Il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia? Là si drizza un patibolo. Quel Mario per tuo voler non resta che un'ora di vita. guaio? Il socco che lo sangue aiuto cuore dannato muori muori muori ora gli perdono. Thank you. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 Thank you.